Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ci ritrovati, una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. È tempo di bilanci annuali delle principali istituzioni finanziarie italiane. Qualche giorno fa abbiamo parlato per esempio della relazione annuale dell'ISVAP, l'autorità dell'energia, l'autorità del mercato. Prossimamente farà la sua assemblea annuale l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Due giorni fa è toccato alla COVIP, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, fare il punto sullo stato dell'arte della previdenza complementare, anche per monitorare il mondo dei fondi pensione in relazione alla crisi finanziaria degli ultimi tre anni. Cosa è emerso? Buone e cattive notizie insieme. Allora, intanto, una buona notizia: i rendimenti dei fondi pensione sono in recupero e hanno superato i cali del periodo di forte ribasso di borsa. E però risulta particolarmente problematico il fronte nuovi iscritti, perché da questo punto di vista c'è ancora una certa resistenza da parte dei lavoratori verso la previdenza complementare. Nel 2009 i nuovi aderenti hanno registrato una crescita di appena il 4,2%, e c'è stato anche un altro problema che il presidente della COVIP, Finocchiaro, ha messo in luce. Lo scorso anno oltre 700.000 lavoratori hanno sospeso i versamenti dei contributi. Non è un quadro molto incoraggiante, ne abbiamo parlato molto spesso a Salva Danaio e anche commentato le motivazioni che inducono molti lavoratori a non scegliere la previdenza integrativa, preferendo lasciare il TFR in azienda. Peraltro, anche per aumentare la sensibilità sull'argomento, pare che il ministro Sacconi sia intenzionato ad organizzare per il prossimo anno l'iniziativa Un giorno per il futuro, proprio per svolgere opera di sensibilizzazione e di informazione sulla previdenza integrativa. Noi commentiamo questo stato dell'arte, però descritto dalla COVIP, con due ospiti. Quest'oggi un rappresentante del mondo dei fondi negoziali, un rappresentante del mondo dei fondi aperti, che saluto. Nadia Vavassori torna a Salva Danaio, responsabile Business Unit Fondo Aperto Seconda Pensione, Amundi SGR Gruppo Credit Agricole. Una carica lunghissima, Vavassori, ho detto tutto correttamente, bentornata. Bravissima, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e insomma, speriamo di dire cose sempre utili. Utili, esatto, soprattutto utili, perché poi a prescindere dai commenti che si possono fare su come i fondi vanno o meno, più che altro c'è bisogno ancora di fare grande informazione e grande chiarezza. Poi magari, come dire, l'andamento continuerà ad essere questo anche per i prossimi anni. L'importante è che le scelte vengano fatte consapevolmente. Saluto e ringrazio di essere con noi per la prima volta a Salva Danaio Mauro Bichelli, direttore generale di Fondapi, che è il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese, ne cito qualcuno: metalmeccanico, chimico, tessile, grafico e tanti altri. Bichelli, benvenuto anche lei. Grazie a lei, grazie molto. Allora, il numero verde per le vostre domande è sempre l'800240024, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. So che questo è un tema che vi appassiona particolarmente, come succede per la previdenza obbligatoria, l'abbiamo visto qualche giorno fa parlando delle novità recenti della manovra di aggiustamento dei conti pubblici, per cui ci piacerebbe, appunto, visto che da qualche tempo magari il mondo della previdenza complementare non lo esploriamo più attentamente come abbiamo fatto nel periodo in cui c'era da scegliere se dirottare il TFR nel fondo di previdenza complementare o meno, il primo semestre del 2007, per cui vi richiediamo, appunto, un contributo proprio per capire anche il vostro personale individuale stato dell'arte. La borsa, rapidamente, visto che abbiamo già fatto un punto nel giornale radio, possiamo farlo qua abbastanza breve. Crescita per tutti gli indici questa mattina, mercato che guarda favorevolmente anche all'asta che ha avuto successo stamattina di titoli di Stato spagnoli, e quindi più 0,5% a Milano, Parigi più 0,8%, Francoforte più 0,56%, Londra più 0,81%. Hanno ripreso a recuperare qualcosa i titoli British Petroleum. Andiamo a Piazza Affari, rapidamente i migliori titoli del momento: Impregilo più 2%, Atlantia più 2%, A2A più 1,6%, più 1,5% anche per Buzzi Unicem, Autogrill più 1,2% per Bulgari, in rialzo di 1%, Ansaldo, Unicredit, Mediaset, STM, Mediobanca, segno meno per Campari che perde l'1,7%, Mediolanum in ribasso di 1%, con Saipem. Euro su dollaro a 1,23,74. Andiamo ai nostri fondi pensione. La crisi finanziaria ha fatto sentire i suoi effetti anche sul comparto della previdenza complementare. Secondo la relazione annuale presentata martedì scorso dalla COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Nel 2009 gli iscritti sono cresciuti solamente del 4,2% e circa 700.000 aderenti non hanno versato nemmeno un euro al proprio fondo pensione. Nello stesso periodo, grazie a strategie di investimento prudenti e al parziale recupero dei mercati finanziari, i rendimenti di tutte le tipologie di fondi sono cresciuti. Più 8,5% per i negoziali, più 11,3% per i fondi aperti e più 16,3% per i PIP. Una crescita confermata anche nei primi tre mesi del 2010, nel corso dei quali i rendimenti sono stati positivi di 2 punti percentuali per i fondi negoziali, 2,7 punti percentuali per gli aperti e 4,1 punti per i PIP. Tuttavia, nonostante il recente recupero, ampliando lo sguardo al biennio 2008-2009, il segno più si conferma solamente per i fondi negoziali, con un rendimento pari all'1,7%, mentre le altre tipologie hanno registrato performance negative. Nel complesso, il risultato dell'intero sistema è positivo, più 1,4%, un valore dunque inferiore rispetto alla rivalutazione del TFR, pari al 4,7%. E però, insomma, non solo i rendimenti vanno guardati nella valutazione della forma di previdenza complementare che scegliamo. Volevo però chiedere un commento subito ai nostri ospiti sul quadro delineato dalla Covip e sul fatto che comunque le adesioni non crescono. Mauro Bichelli, io comincio da lei, anche perché poi, tra l'altro, avendola per la prima volta ospite della nostra trasmissione, vorrei capire anche qualcosa in più rispetto a questo fondo, che peraltro è estremamente anche rappresentativo del mondo produttivo italiano, quello delle piccole imprese. E quindi le chiedo un po' che cosa pensa rispetto a questo stato dell'arte che ha descritto la Covip e che abbiamo ridescritto nella nostra scheda. Ma la mia impressione è che le osservazioni che sono state fatte dal Presidente puntano il segno su, innanzitutto, sulla questione che riguarda il primo pilastro, cioè sul fatto che il primo pilastro, con le difficoltà industriali di contingenza che abbiamo visto in questi anni, per forza di cose non riuscirà a essere un primo pilastro solido, anzi è probabile che la necessità della previdenza complementare debba essere acquisita dai nostri lavoratori sempre di più, proprio perché quel primo pilastro potrebbe essere a raggiungere i nostri lavoratori con dei livelli ancora inferiori rispetto a quelli che andavano le stime in precedenza. E questo peraltro sì, anche il motivo per cui, tra l'altro, abbiamo ribadito un paio di giorni fa, si sta andando verso la strada dell'allungamento dell'età pensionabile, perché è un sistema che è sempre più chiaramente non sostenibile, e questo è un punto anche per rimarcarlo a chi guarda ovviamente con grande frustrazione al fatto che deve lavorare più anni, ma questo è ineluttabile. Bichelli. Uno degli elementi che a me è piaciuto della relazione del Presidente è la questione di trasparenza e di comunicazione. E in sostanza ha fatto riferimento alle performance dei fondi pensione aperti, dei fondi pensione contrattuali e dei PIP, ma ha fatto riferimento anche alla questione dei costi, cioè ha messo in risalto la questione che è nota solamente agli operatori del settore, cioè che c'è una differenza di costi fra questi tre soggetti e che è legata nella sostanza alla rete di distribuzione, cioè laddove c'è un fondo contrattuale che non ha una rete di distribuzione, o meglio la trova nelle rappresentanze, fa più fatica a raggiungere le aziende, nel nostro caso è molto difficile perché sono piccole, nonostante questo però può dare agli iscritti un servizio ad un livello di costo evidentemente inferiore rispetto agli altri partner. Gli altri partner, sostanzialmente gli altri competitor, meglio, sostanzialmente pagano una rete che ovviamente è in grado di raggiungere con più facilità i lavoratori, ma a prezzo di un costo decisamente superiore. Questo è un elemento che non è noto ai lavoratori, o comunque non raggiunge i lavoratori con la facilità che noi vorremmo, e alla fine anche il Presidente citava una crescita fortissima dei PIP nonostante queste differenze di costi, della quale noi nella quale riconosciamo la loro capacità di aggredire il mercato, e ci dispiaciamo però che il messaggio della trasparenza dei costi non arrivi così tanto. Beh, c'è anche da dire che qualche volta magari i lavoratori non è che siano proprio del tutto inconsapevoli rispetto ai costi che sostengono, magari hanno una promessa di rendimento più alta e quindi sono anche, di fronte a certe promesse, disposti anche a spendere qualcosa in più. Quindi l'importante è capire che se certi oneri vanno sostenuti in cambio di qualcosa, magari l'assistenza consulenziale, che forse è fatta in maniera diversa, almeno nelle promesse, rispetto ai fondi negoziali. Quindi forse ci sono tanti altri aspetti da considerare. Io devo già andare in pausa, però una battuta a Nadia Vavassori la concedo, proprio magari anche se vuole, su questo aspetto che ha già sollevato Bichelli, che mi sembra molto interessante. Il tema costi, secondo lei, ha tenuto anche lontani molti potenziali aderenti alla previdenza complementare negli ultimi anni? Nadia Vavassori? parzialmente d'accordo col dottor Michelli, lo ringrazio per non aver citato i fondi pensione aperti, peraltro personalmente so che i vostri sono tra i più convenienti da questo punto di vista. No, noi non sì, però ha ragione, cioè noi non abbiamo una rete di fatto, di conseguenza il collocamento per noi è diretto e quindi siamo come... Diciamo che la trasparenza dei costi è stata comunque in qualche modo garantita, e per quello che convengo anche con te Deborah che non sia più così tanto inconsapevole l'aderente. La commissione di vigilanza ha imposto un indicatore sintetico dei esatto costi. È in prima pagina sul sito della COVIP, per cui si può andare subito anche a controllare. Sì, che poi potrebbe essere fatto meglio, potremmo rappresentarlo in maniera più coerente, però le informazioni base, il set minimo oggi esiste in termini di costi. Poi sono comunque convinta che esistano sicuramente altre variabili, magari la comodità, magari variabili perché si è legati a una presa di posizione che vuole tenersi distaccata dal fondo aziendale. Magari questo, perché si ha un rapporto con una banca magari consolidato negli anni, si hanno altri prodotti di investimento attivati, c'è già il conto, e visto che magari si è già allestita la struttura anche per la consulenza previdenziale, si decide per comodità, come diceva Nadia Vavassori, di andare lì. No? Sì, sì, ripeto, ha tanti elementi molto diversificati, molto personalizzabili, magari oltre a quello delle performance che per esempio tra negoziali e aperti, è stato detto anche dal presidente COVIP, sono piuttosto allineate, per cui rimane, come dire, una variabile forse non così discriminante in questo momento. Benissimo. Li abbiamo, c'è una crisi economica che nel breve chiaramente condiziona la possibilità e capacità di risparmio anche previdenziale. È che è quella che ha provocato anche il blocco e la sospensione dei versamenti dei contributi da parte di 700.000 lavoratori. Mi piacerebbe affrontare anche questo aspetto tra poco. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi Salvadanaio torna su un tema che è stato un grandissimo cavallo di battaglia fra il 2006 e il 2007. Poi l'abbiamo un po' trascurato, complice anche la crisi che ci rendeva un po' anche complicato trattare tanti argomenti. Ma in ogni caso bisogna fare ogni tanto un punto della situazione sulla previdenza complementare, perché molti lavoratori negli ultimi anni hanno scelto di dirottare il proprio trattamento di fine rapporto verso questi strumenti di previdenza integrativa. La situazione è che comunque questi strumenti hanno superato la crisi, per fortuna in termini di rendimenti, e però non si superano altre resistenze. I lavoratori che qualche anno fa non hanno scelta la previdenza complementare continuano a mantenersi ostinatamente nelle loro posizioni, probabilmente hanno anche ragione nel farlo. L'importante è che, come abbiamo ribadito anche all'inizio, poi le scelte siano assolutamente ponderate e scelte fatte consapevolmente. Volevo fare ancora un paio di domande ai nostri interlocutori di questa mattina. Stiamo commentando la relazione del presidente della COVIP, l'autorità di vigilanza sui fondi, di due giorni fa, e volevo tornare a Mauro Bichelli, direttore generale di Fondapi, per farmi raccontare anche un po' la storia di questo fondo, del quale abbiamo parlato poco, ma in realtà è un fondo molto rappresentativo perché è la previdenza complementare dei lavoratori delle piccole e delle medie imprese italiane in tantissimi settori. Allora le chiedo, Bichelli, per esempio, visto che fate aderire anche i lavoratori ad esempio del settore chimico piuttosto che metalmeccanico, sono due settori che hanno già due grandi fondi di categoria, due fondi negoziali, mi riferisco a Cometa e a Fonchim. I lavoratori con quale criterio scelgono il fondo, per esempio il chimico, Fonchim, piuttosto che il vostro? Sì, la differenza nella sostanza è il contratto che viene applicato, quindi il dipendente si iscrive alla previdenza di Fondabi se il contratto che viene citato è il contratto con Fabi, quindi Confederazione delle Aziende Medie e Piccole di tutti i settori, quindi meccanico, chimico, tessile e così via. Se invece il contratto che viene applicato al momento dell'assunzione è quello di Confindustria Meccanica, per esempio, stiamo parlando del fondo Cometa. Fondapi oggi, per darle una sintesi, nella sostanza vale circa 45.000 iscritti, 5.000 aziende, però in realtà potrebbe essere potenzialmente molto più grande, potrebbe aggredire anche una popolazione di 500.000 iscritti, e questi certamente anche di più, e di un numero di aziende che potrebbe essere anche 40.000. C'è anche da dire che le piccole, piccolissime aziende hanno fatto un po' fatica negli anni a spingere i propri lavoratori verso la forma di previdenza complementare, perché chiaramente il TFR mantenuto in azienda è servito anche a risolvere qualche problema di liquidità, soprattutto evidente negli ultimi due anni, e quindi forse per questo chiaramente la platea non riesce ad allargarsi, Bichelli. Forse questo è uno degli elementi, perché poi alla fine le operazioni messe in pista dalla normativa non sono così efficienti e fino adesso sostanzialmente non si sono messe davvero in atto. Dall'altra parte bisogna dire che il problema di raggiungere gli iscritti diventa significativo perché non passa un messaggio, che è il messaggio dei gemelli, cioè il messaggio che noi come fondo contrattuale, come tutti i fondi contrattuali, cerchiamo di presentare. Il confronto fra chi si è iscritto e chi non si è iscritto è molto significativo, perché oltre a poter avere il TFR, in realtà se mi iscrivo alla previdenza complementare contrattuale ricevo anche il contributo del datore di lavoro. Questo effetto di vantaggio anche sugli anni, per quanto ci riguarda, anche sugli anni più difficili, cioè dal 2007 al 2009, vuol dire comunque un vantaggio del 13% sui montanti. E quindi in realtà la nostra preoccupazione, ma anche su orizzonti lunghi, quindi anche su un periodo che può essere dalla nascita al 2009, la percentuale si riduce, ma sostanzialmente rimane attorno al 13%. Quindi il nostro dispiacere è che non abbiamo raggiunto quegli iscritti. Dall'altra parte ho l'impressione che si ha bisogno certamente di trovare anche delle chiavi di lettura con le aziende, perché questa necessità diventa per noi una chiave di volta. Se ci riusciamo, se in qualche misura anche il governo, la normativa riescono a coprire questi deficit, io penso che noi possiamo raggiungere tranquillamente i 100.000 iscritti per poi arrivare anche un giorno ai 500.000. E che si ha l'impressione di vivere in questo settore sempre un po' una fase transitoria in Italia. Certo è che siamo partiti ovviamente molto più tardi, e questo lo sappiamo bene, rispetto alle tradizioni anglosassone molto più consolidate, dopodiché ci è piombata addosso anche questa crisi che sicuramente non ha aiutato gli scettici. E comunque ci sono invece tanti lavoratori che hanno consapevolmente aderito alla previdenza complementare. Io vi leggo, questa è una domanda per Nadia Vavassori, perché c'è un ascoltatore che nel suo ambito familiare ha scelto per sé e per sua moglie di destinare appunto il TFR a due fondi aperti. Adesso non li cito perché mi interessa più che altro la sostanza della domanda, e saluto Massimiliano che ci scrive un articolato messaggio, e lui cita anche i due fondi e dice: la cosa strana è che il mio, probabilmente hanno scelto le stesse linee di investimento, ha una percentuale di azioni molto inferiore rispetto al paritetico della moglie. Sono intenzionato a cambiarlo, ma per fare una scelta giusta a cosa devo guardare con attenzione? Ad esempio il costo di gestione di entrambi, e non capisco bene a che cosa guardare per capire quale dei due sia per esempio gestito meglio. Nadia Vavassori, che cosa risponderebbe a questo ascoltatore? Devo dire che non c'è il suo di mezzo, No, bene, cioè bene o male, insomma, dipende dai punti di vista. No, darei due indicazioni, che sono, allora, il fatto che ci possa essere una componente azionaria più rilevante è perché in realtà bisogna leggere con attenzione le politiche di investimento messe in atto. Il benchmark voluto da Covip è corretto, ovvero il paniere di indici a cui quel comparto fa riferimento in termini di universo investibile è un'indicazione di massima entro la quale il gestore e la società istitutrice e gestrice del fondo pensione aperto può muoversi con intervalli a volte più ampi oppure più stretti, su una base di scelta discrezionale e quindi di capacità di pura gestione finanziaria. Quindi è importante, per avere qualche indicazione in più, che vada a leggere nel prospetto informativo, nella politica di investimento, oltre che il benchmark, che può anche essere uguale, la forbice che il gestore si è preso dichiarandolo nella documentazione d'offerta. Sempre per dare un altro consiglio pratico, in termini di confronti delle linee, consiglierei di andare a leggere nella nota informativa aggiornata al 1° di marzo 2010, questo vale a prescindere dal prodotto, nella sezione relativa ai commenti sull'andamento e sulla gestione finanziaria, ci sono dei dati molto importanti, tra cui un dato che è il vecchio TER, ovvero il costo totale che grava sui comparti, che è diverso dall'indicatore sintetico di costi che troviamo invece nella nota informativa nella parte scheda sintetica. E diciamo, tiene conto anche di una serie di oneri tipici della gestione finanziaria, come gli oneri di negoziazione eccetera, che vengono fatti gravare sul comparto del fondo e di conseguenza forse meglio esprimono i costi relativi alla gestione chiaramente certo. dell'anno solare appena passato. Poi tra l'altro, siccome non sono proprio poi tra l'altro aspetti molto semplici da poter valutare in maniera individuale, perché io già faccio fatica a poter mettere a confronto, anche se mi occupo frequentemente di questo argomento, l'ISC piuttosto che il TER per capire quanto mi costa il fondo di previdenza complementare che ho sottoscritto, visto che sono due fondi che fanno capo a due grandi aziende, lo dico a Massimiliano, chiami i due consulenti che questi fondi ovviamente hanno venduto e si faccia spiegare con grande chiarezza, dice, mi fai un prospetto chiaro rispetto a quello che io spendo per questi fondi, quindi visto che è il loro lavoro possono spendersi anche in questo senso, appunto in termini consulenziali. Tra l'altro in questo periodo, almeno io l'ho ricevuto da parte del mio fondo di previdenza complementare, i fondi, perché ha aderito ovviamente, stanno inviando un prospetto con le indicazioni sulla situazione contributiva di ognuno di noi e in prospettiva su quella che potrebbe essere la rendita, ovviamente al termine dei versamenti, se questi si manterranno costanti nel tempo. Siete stati tutti chiamati ad ottemperare a questo obbligo, Mauro Bichelli di Fondapi? Certamente sì, questo è un obbligo di legge, quindi ognuno dei nostri iscritti ha ricevuto questo, sostanzialmente questa personalizzazione di quanto è il livello di copertura pensionistica complementare che presumibilmente, secondo certe ipotesi che ha fissato la commissione di vigilanza, avrà al momento della pensione. Per quanto riguarda l'altra domanda però vorrei citare, così che focalizziamo subito la questione dei costi, che nella nota informativa, pagina 7, proprio perché le pagine sono proprio numerate secondo una normativa di riferimento, c'è proprio lo specchietto che lei diceva, cioè c'è uno specchietto nel quale si identificano i costi di primo ingresso, piuttosto che non anche tutti i costi sulle prestazioni, se ci sono, in realtà i fondi contrattuali in gran parte non hanno nessun costo sulle prestazioni, però io se fossi diciamo il risponditore cercherei, per quell'iscritto cercherei anche di chiarire il livello di servizio, cioè il livello di servizio, si può avere un'idea del livello di servizio anche sulla capacità di risposta alla mail, piuttosto che non anche semplicemente sulla relazione al bilancio nella quale si dice quanto si è fatto in termini di attenzione ai rischi finanziari nell'ultimo anno, non solamente noi ma molti fondi hanno ovviamente nell'ultimo anno acuito i controlli sui livelli di rischio anche sul debito governativo per esempio, proprio perché considerano questa una fase di eccezionale difficoltà per le gestioni in generale, quindi che ha bisogno di presidi. E infatti, quindi ha fatto bene, allora magari io suggerirei a Massimiliano di fare una prova, faccia delle domande precise, quelle che ha fatto a noi, ai suoi consulenti, anche i tempi di risposta saranno un test importante per valutare se i costi che lei sostiene per appunto questi fondi di previdenza complementare sono dei costi che hanno ragione appunto di essere sostenuti. Ultima parte di Salvadanaio questa mattina dedicata ancora una volta alla previdenza complementare, abbiamo messo gli occhi su quanto ha dichiarato nei giorni scorsi, due giorni fa, il presidente della COVIP, l'organismo di vigilanza sui fondi pensione, tracciando il quadro sullo stato dell'arte della previdenza complementare. Oggi siamo ritornati prendendo a spunto appunto questi temi a rispondere alle vostre domande, alle vostre perplessità. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri quesiti. Paolo da Siracusa aspetta da un po', lo saluto. Paolo, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io sono un tipico lavoratore nel settore turistico e lavoro a carattere stagionale. Volevo sapere se esistevano dei fondi di previdenza integrativa dedicati ai lavoratori stagionali e se no che cosa i suoi ospiti potrebbero consigliare ai tanti lavoratori stagionali che ci sono, insomma, che hanno un contratto a tempo indeterminato. E infatti, allora, grazie a lei Paolo, perché allora Bichelli, vengo prima da lei, anche se immagino che per situazioni di questo tipo è chiaro che una previdenza privata forse sia la più adatta, e però nel vostro ambito delle piccole e medie imprese ci sono molte società che operano nel settore turistico, quindi a Paolo, che avrà anche una posizione contributiva e previdenziale abbastanza frammentaria, sparpagliata, cosa si può suggerire di fare? Il problema rimane la questione della stagionalità, il problema rimane quello del contratto. Ovviamente la stagionalità è un problema che nel tempo ricade sull'iscritto, nel senso che l'iscritto anche all'interno dei nostri contratti può iscriversi e avere dei contratti a tempo determinato, ma deve avere quel contratto secondo il quale è possibile iscrivere la previdenza Fondapi. Il problema, io suggerirei la scelta di un fondo pensione aperto laddove però mi atterrei a quei requisiti di costo e soprattutto all'adeguatezza del profilo di rischio. Il problema rimane sempre lo stesso, nella sostanza se ho una discontinuità di contribuzione è difficile immaginare immaginare di poter assumere dei rischi costanti, questo per natura, quindi mi atterrei ad un profilo di rischio che rimane ragionevolmente prudente, però andrei a cercare di fare una selezione di un fondo pensione aperto che dà delle risposte in termini di servizio, di costo, piuttosto che non semplicemente di rendimento. Allora, Nadia Vavassori, come ha sentito Bichelli, gliel'ha messa proprio su un piatto d'argento, quindi a Paolo che scelta facciamo fare? Ha ragione Bichelli quando dice comunque è questo il mondo a cui deve guardare, ma naturalmente scegliendo anche un criterio di investimento molto prudenziale, perché Paolo chiaramente potrà fare dei versamenti non costanti nel tempo, quindi chiaramente deve mettere in chiaro anche con il proprio consulente tutti questi aspetti. Sì, ringrazio, chiaramente il fondo che può scegliere è il mio, no, adesso a parte le battute, allora non esiste e non mi risulta esista un fondo di categoria per questa tipologia di lavoratori, che dobbiamo rifarci chiaramente a uno strumento come il fondo pensione aperto, che prende tutte le, che è trasversale rispetto a tutte le categorie di lavoratori. Detto questo, nel caso in cui il lavoratore stagionale comunque maturi del TFR, il vincolo del datore di lavoro nel versare il TFR è che il contratto superi comunque i 3 mesi, altrimenti non c'è neanche questo vincolo sulla base della scelta del lavoratore di destinare il TFR. A questo punto rientriamo chiaramente in una scelta di costruzione totalmente individuale, ovvero da terzo pilastro, della propria pensione complementare alla pensione INPS. Sono assolutamente d'accordo con il dottor Bichelli che deve essere, non essendo possibile realizzare un piano di accumulo evitato il comparto maggiormente rischioso, che solo col piano d'accumulo attenua le perdite cercando di sfruttare al massimo invece i guadagni, chiaramente cercare un fondo che gli dia comunque un ventaglio di offerte numericamente ragionevole, piuttosto semplici come comprensione, e la possibilità poi di gestire in maniera flessibile il cambio di scelta, esatto, o di orizzonte. A proposito di questa flessibilità, Vavassori, per esempio, rimanendo sempre al caso di Paolo da Siracusa, lavori stagionali, quindi magari lui avrà una piccola cifra da poter accantonare, una tantum nel corso dell'anno, il piano di versamenti al fondo aperto come funziona? Deve essere fatta per forza, deve essere, il versamento deve essere fatto per forza mensilmente, oppure si può fare un versamento unico annuale, magari Paolo può farlo quando per esempio ha questa disponibilità finanziaria frutto dei suoi 3, 4, 6 mesi di lavoro? Ma questo dipende molto dalla tipologia del prodotto, per cui qua mi sentirei di parlare del mio. Noi non abbiamo obblighi di versamento minimo, la frequenza, gli importi sono totalmente a scelta volontaria, quindi non esiste neanche il fenomeno della sospensione, perché non siamo in grado di conoscerlo a priori, nel senso uno può versare l'anno, anche perché è molto diversa l'esigenza se distinguiamo il lavoratore autonomo dal lavoratore dipendente. Il lavoratore autonomo lo fa essenzialmente per sfruttare appieno il vantaggio fiscale e pertanto conosce, diciamo, la somma disponibile per sfruttare al massimo il plafond a fine dell'anno. Il lavoratore dipendente invece ha flussi diversi e di conseguenza non, insomma, dipende un po' come si disegna. Io posso parlare del mio fondo perché il trattamento che riservo in termini di costi, di servizi e quant'altro è identico sia che sia un aderente lavoratore autonomo sia che sia lavoratore dipendente, pertanto non ho questa tipologia di vincoli, però non posso parlare per gli altri fondi. Certo, vabbè, comunque abbiamo capito come funziona il suo. Tra l'altro aveva sollevato anche l'aspetto del vantaggio fiscale che viene ricercato soprattutto dal mondo dei lavoratori autonomi. Sentirei su questo, ci chiede un chiarimento Lorenzo dalla provincia di Lecce. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, infatti io volevo semplicemente testimoniare, diciamo, che sono cioè, positivamente impressionato dagli investimenti nei fondi pensione, perché praticamente da quando ho iniziato a investire dal 2007 io mi ritrovo sempre con un recupero, diciamo, dal punto di vista fiscale, per cui diciamo trovo che magari chiarire meglio questo aspetto del recupero scudo fiscale è una cosa... La ringrazio, diciamo, Lorenzo, la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza. Allora io faccio fare sia al trattamento fiscale al fondo chiuso che a quello aperto, così chiariamo questo aspetto. E allora, Bichelli di Fondapi, per chi aderisce ad una forma di previdenza complementare chiusa, quindi al fondo di categoria, il chimico, il Fonchim per il chimico, Fondapi per le piccole e medie imprese in tantissimi settori, tessile, grafico, alimentare, edile e quant'altro, qual è il trattamento fiscale di questo fondo? Allora, il problema del trattamento fiscale è nella sostanza che è difficile come messaggio. Nella sostanza, è proprio semplificando, è questo: il TFR viene tassato all'incirca all'aliquota marginale, e quindi la tassazione su un TFR che rimane in azienda è all'incirca del 23%, mentre nel caso in cui io contribuisco alla previdenza complementare, sulla mia contribuzione io fino ad una certa data, direi fino al 1 gennaio 2007, ho una tassazione che assomiglia a quella dell'aliquota da marginale. A partire da quella data, su tutte le contribuzioni successive io ho una tassazione, diciamo, che non supera il 15% e potrebbe ridursi fino al 9%. Questo è un primo elemento di differenza. Il secondo riguarda i contributi, e cioè se io sottoscrivo un fondo di previdenza complementare, il contributo del datore di lavoro e il contributo del lavoratore sono deducibili fino a una somma elevata, quindi fino a 5.164 euro. Che vuol dire? Vuol dire nella sostanza che nella fase di accumulazione, e quindi in tutto il primo periodo in cui io non sono ancora andato in pensione, su queste somme io non vengo tassato. Succederà poi che a valle, quindi nel momento in cui io sono in età di pensione, la prestazione complessiva verrà tassata secondo le aliquote che dicevamo. È chiaro che questo messaggio, che adesso diventa un po' più semplice, in passato era molto complesso, perché la differenza fra l'aliquota marginale del TFR e quella effettivamente applicata sulla contribuzione per i periodi passati era molto complessa, perché si è modificata nel tempo. Però io, questo è il messaggio. Infatti, non riesco a far intervenire Nadeva Vassori anche per completare il nostro discorso sul trattamento fiscale del fondo aperto. Poi c'è anche qualcos'altro da dire a proposito dei PIP. Allora io magari mi impegno a rinvitarvi di nuovo, ma purtroppo sono già fuori tempo massimo di 30 secondi e non posso far arrabbiare i miei tecnici, perché altrimenti mi chiudono brutalmente. Grazie ad entrambi per essere stati con noi, ma ci ritorneremo su questo argomento, come facciamo spesso. Noi ritorniamo invece di Salva Danaio domani ancora con i Tango Bond. Non vi preoccupate, che dobbiamo ancora tornare ancora una volta su quell'argomento lì. Buona giornata a tutti.